niente, vero? Forse a diversità mia lui era un boss, io non ci ho mai tenuto. Come inizia la guerra agli infami? È quando il fratello di Peci si pente. A quel punto almeno io mi rendo conto che davanti all'infamità, alla possibilità di riacquistare la libertà a poco prezzo, avrebbe dato una svolta a tutto quello che poi può essere stato la storia della malavita a Milano. Ho parlato per svariati mesi con più persone dicendo che, e parlavo sempre con gente che era rovinata quanto me, nel senso che aveva ergastoli da fare. Essendo noi nella condizione di non avere nulla da perdere, sarebbe stato agevole poterla fare pagare a tutta questa gente che si avvantaggiavano dal fatto che se loro venivano arrestati a Milano e facevano arrestare 100 persone a Milano, venivano trasferiti a Roma Re Bibbia e a quel punto sembravano diventati intoccabili. E dico che faccio ammenda perché poi, visti gli esiti, è stata pressoché disastrosa questa idea. Visto che per tre infami che possono essere morti, sono morti 30 bravi ragazzi che hanno avuto solo il torto di essere antipatici a qualcuno. Pensa di essere intellettualmente onesto? Ma sicuramente sì, molto più onesto di tanti di quelli che mi giudicano. Nel limite del possibile non rinnego mai una cosa che ho fatto, non mentisco, non do addosso ad altri responsabilità che sono mie, non mi defilo. Pensa di doversi ancora riscattare o si è già riscattato? Non penso di essermi riscattato, penso che questa è una domanda che mi dovrai rifare fra qualche anno, molto probabilmente dopo che sarò riuscito finalmente a uscire di galera e poter dimostrare che Renato è qualcosa di diverso dal bel René. Che cos'è la coerenza per Renato Vallanzasca? Penso di essere stato coerente perché non ho mai cercato sconti, non sono mai sceso a patti. Pensa di essere un uomo libero nonostante tutto? Diciamo che l'unica libertà che mi sono presa è stata quella di pensare, e siccome pensare la ritengo una delle cose più importanti che la vita mi ha lasciato, sono libero mentalmente. Quando la mattina si guarda allo specchio, che cosa pensa? Vedo un Pirla che ha bruciato la sua vita. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. L'archivio delle puntate lo trovate sul nostro sito radio24.it, poi c'è il gruppo su Facebook Radio24 Italia in Controluce e la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.